È lunedì 5 dicembre e vediamo i titoli di apertura, che sono tutti ovviamente dedicati alla vicenda, alla manovra, mentre qua cadono i mouse, cadono le tastiere, quando si spostano i giornali succede. Allora, intanto il Sole 24 Ore, che oggi esce in edizione straordinaria, cioè non la consueta edizione del lunedì, che viene diciamo chiusa il venerdì sera, ma edizione straordinaria dedicata alla manovra. Casa, pensioni, IRAP, ecco il decreto salva Italia. Per il Corriere della Sera, tasse, case e pensioni, pesanti sacrifici. Repubblica, ecco il decreto salva Italia. E lo stesso titolo sulla Stampa, Monti, decreto salva Italia. Per il Messaggero, Monti, ecco la manovra salva Italia. Niente, questo è un tormentone, no? La manovra salva Italia. Il Giornale Libero si concentrano sulle lacrime del ministro Elsa Fornero. Certo, un momento sicuramente più emblematico rimarrà nella storia. Per il Giornale, piange il governo, noi di più. Ma così anche l'Unità, c'è da piangere. E c'è la foto di Elsa Fornero. Una manovra da piangere, il secolo XIX, e ci sono le lacrime del ministro. Mentre Libero, il governo chiagne e fotte, e sempre con le lacrime. E vabbè, avete capito che i giornali Libero, anche Libero in edizione straordinaria, lunedì di solito non è in edicola. Io però voglio iniziare da una notizia di cronaca che nei giorni scorsi avevamo accennato, oggi trova ampio sviluppo sui giornali, perché a partire da oggi Erika De Nardo, l'autrice insieme al fidanzato Omar Favaro del delitto di Novi Ligure, è libera di fatto, ha finito di scontare la sua pena. Omar già è libero da un po' di tempo. Pronta per Erika una casa all'estero, questo è il titolo di pagina 31 del Corriere della Sera. Diciamo che tutti i quotidiani dedicano almeno una pagina a questa vicenda, soprattutto dopo che ieri sul quotidiano nazionale Erika ha scritto una lettera autografata di suo pugno, scritta a mano, nella quale ha accusato l'ex fidanzato di essere un viscido, di speculare sulla sua famiglia, di volere farsi bello e di voler cercare celebrità con questa tragedia. Pronta per Erika una casa all'estero, questo è il titolo del Corriere della Sera, è in una comunità di Don Mazzi. Tra l'altro vi voglio segnalare tra i tanti articoli quello di Marco Imarisio a pagina 31 del Corriere. Il titolo è L'abisso di quel padre, vivo per lei. C'è infatti una figura che è il padre di Erika, l'ingegner Francesco De Nardo, che in tutti questi anni è rimasto assolutamente nell'ombra. Si ricorda di lui solo una frase: il 6 marzo 2001, quando incontrò alcuni giornalisti nel cortile del carcere di Ferrante a Porti, e disse: io ho Erika e devo continuare a vivere per lei. Si allontanò e, una volta certo di non essere seguito, attraverso le sbarre di una finestra al pian terreno passò all'assistente sociale un pacchetto con dentro due libri di scuola. In quel gesto c'era già tutto, la vita doveva continuare. Eccolo qui l'ingegnere di Novi Ligure. Ha scelto sua figlia nel solo modo possibile, decidendo di guardare avanti e rinunciando ad affacciarsi sull'orlo dell'abisso. A suo modo, Francesco De Nardo è diventato un personaggio per contrasto, per la sua integrità, rifiutando ogni ribalta pubblica, cercando di tutelare sua figlia da ogni clamore. In 10 anni ha saltato al massimo 2 colloqui in carcere, riferiscono gli psicologi e gli assistenti sociali. Agli avvocati ha sempre dato disposizioni draconiane nei contatti con i media, lasciando filtrare disappunto ogni volta che qualcosa filtrava dalla nuova vita di Erika. Uno di loro lo racconta addolorato, furioso, quando nel 2009 Matrix mandò gli interrogatori di Erika. E le recenti comparsate di Omar, tornato in libertà, lo hanno fatto stare malissimo, come avverrà anche oggi per una giornata che dovrebbe chiudere, illuminandola per l'ultima volta, una storia che tutti vorrebbero dimenticare. Questo è Marco Imarisio sul Corriere della Sera. C'è Don Mazzi poi, che ha scritto una lettera alla stessa Erika dicendo: la bestia è sempre in agguato dentro di noi, il domatore talvolta viene travolto, altre volte immolato, spesso inascoltato. Vorrei che tu capissi quanto è importante rileggere il tuo passato, non per pescare nel torbido, ma per rigenerarlo e tradurlo in novità di vita. Un Don Mazzi che tra l'altro sulla Stampa invece, che dedica una pagina alla vicenda, dice: ora basta questo clamore mediatico, dovete lasciare in pace Erika, e la possibilità è che vada all'estero in una delle case a disposizione della comunità di Exodus fondata da Don Antonio Mazzi per continuare il suo percorso di recupero. Ovviamente c'è anche su internet, si sono scatenati subito alcuni anche gruppi su Facebook indignati per la libertà riconquistata dopo aver scontato la pena, certo ridotta con indulto e vari benefici, da Erika di Novi Ligure. Allora, ci fermiamo per qualche minuto e poi ci tuffiamo in quella che è la lettura dei giornali dedicata alla manovra. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 7:33 minuti. Allora, tuffiamoci nella lettura dei giornali cercando di capire quello che è la manovra, o meglio il decreto Salva Italia. Questo è il titolo che usate, che troverete usato di più e che è l'espressione usata dal Premier Monti per questo decreto. Ovviamente non entriamo in tutti i dettagli verranno scoperti anche oggi, ma insomma a grandi linee cerchiamo di capire che cosa si tratta, di cosa si tratta. Casa, pensioni, IRAP, ecco il decreto Salva Italia, così titola il Sole 24 Ore, che vi ricordo oggi è in edizione straordinaria del lunedì ed è dedicato e declinato quasi tutto su questo, tutti i dettagli li trovate. Che cosa prevede in estrema sintesi questo decreto Salva Italia? Beh, ritorna l'ICI sulla prima casa. C'è la totale deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro, c'è la riforma stringente delle pensioni, l'aumento dell'età pensionabile. È saltato all'ultimo l'ipotesi di aumentare l'IRPEF per le soglie, diciamo, sopra i 75.000 euro. I tre capitoli portanti invece sono quelli: l'ICI, la totale deducibilità dell'IRAP e la stretta sulle pensioni, la riforma delle pensioni. Sono 30 miliardi lordi le cifre della manovra, il saldo della manovra. È saltato, come detto all'ultimo minuto, questa super IRPEF al 46%, ma aumenterà l'addizionale regionale. Mentre c'è l'aumento dell'IVA, ma a partire dal settembre del 2012 aumenterà di 2 punti sia l'IVA del 10% che quella del 21%, che già era salita a settembre. E il decreto contiene in pratica 13 miliardi di tagli alle spese e 17 miliardi di nuove tasse. Nuove tasse, cari italiani. E allora Marco Mobili spiega già qualcosa in generale a pagina 3 del Sole 24 Ore, poi ovviamente più nel dettaglio ogni pagina si concentra su alcuni degli aspetti. Intanto prima vorrei sottoporvi qualche commento di direttore di giornali a questa manovra. Devo dire che sono soprattutto sì aperture di fiducia, ma anche critiche per queste tasse che sicuramente ci sono di più in questo decreto Salva Italia. Intanto Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore: in cambio di che cosa? Questo è il titolo dell'editoriale e la domanda è proprio quella da cui parte Napoletano. In cambio di che cosa? Noi accettiamo di pagare di più, molto di più, ma non in bianco. Vogliamo pagare il nostro biglietto, ICI e dintorni pesanti. Siamo pronti a farlo. Vigileremo fino in fondo sul tasso di equità dei sacrifici richiesti. In cambio, però, la manovra da 30 miliardi lordi del governo Monti deve favorire in misura significativa il rientro della bolla dei tassi di interesse sul titolo d'Italia. E proprio più avanti, dopo aver analizzato la manovra, Napoletano scrive: resta il tema di fondo, in cambio di cosa si fanno questi nuovi tagli e si eleva fino a una soglia stellare la quota delle entrate fiscali? Se lo si fa per garantire all'Italia la via d'uscita dal rischio di insolvenza in cui è precipitata e lo si potrà riscontrare in modo tangibile sul differenziale BTP Bund e su una nuova credibilità in Europa, allora è certo che ne sarà valsa la pena e il governo Monti avrà vinto la sua prima sfida. Altrimenti, se dovrà rivelarsi solo un'altra manovra dopo le tante che l'hanno preceduta e le nuove che obbligatoriamente verrebbero, vorrà dire che questo governo e il paese hanno perso la loro ultima chance. È un po' scettico anche Ezio Mauro, direttore di Repubblica. Il titolo del suo editoriale è Il sentiero stretto. E scrive Mauro in prima pagina: è una vera e propria manovra di emergenza perché l'Italia è chiamata a muoversi a grande velocità su un sentiero molto stretto e difficile. L'esito non è assicurato nemmeno a prezzo di sacrifici, perché la fuoriuscita dall'eurozona non dipende solo da noi, ma da noi e interamente dipende il recupero di credibilità dell'Italia e la sua possibilità di pesare nelle decisioni che l'Europa dovrà prendere per rispondere alla crisi. Scettico anche il direttore dell'unità, Claudio Sardo, il titolo, e molti giocano su questa immagine del ministro Elsa Fornero in lacrime quando doveva pronunciare la parola sacrificio che devono fare gli italiani, è scoppiata in lacrime, non è riuscita a continuare, ha preso la parola al suo posto il premier Monti. Ebbene, Claudio Sardo nel suo editoriale dal titolo Si può ancora correggere, in prima pagina dell'Unità, scrive: la manovra è pesantissima, nessuno si illudeva che la serie delle riunioni preparatorie potesse alleggerirla, il pegno degli italiani per attraversare la bufera finanziaria con la speranza di un esito positivo. Il premier Monti ha presentato ieri sera con dignità una lunga lista di sacrifici che il suo governo chiede al paese. Ma poi scrive Sardo: il carico maggiore è ancora sulle spalle delle famiglie, dei ceti più deboli, delle classi medie. È un problema di sostanza, non solo di forma. Questo testo della manovra dovrà essere ancora valutato nei dettagli, ma è evidente il bisogno di riequilibrio e quindi invita a correggere. Mentre in prima pagina del Giornale il direttore Alessandro Sallusti, così concludo con questo quarto direttore, una lettura, una sintesi dell'editoriale, è molto critico. Il titolo del Giornale è «Piange il governo, noi di più». «Dicono che siamo di fronte a una manovra equa», scrive Sallusti. «Sarà. A noi sembra più una manovra Equitalia, cioè da esattore delle tasse. Tasse sulla casa, sui consumi, i beni finanziari, le barche, le auto di lusso, altro ancora. Vietate spese in contante sopra i 1.000 euro, ma guai a chiamarla patrimoniale. Mario Monti, presentando la sua manovra, ha giocato con le parole, con un po' di retorica un po' pretesca, stando attento a non irritare i partiti che dovranno sostenerlo in Parlamento». Vabbè, insomma, come avete capito, un po' di critica. Anche Maurizio Belpietro è ancora più duro. Il titolo di Libero è «Il governo chiagne e ci fotte». E beh, qui l'evidente riferimento è alle lacrime di Elsa Fornero. Loro piangono, a noi il conto, questa è la linea di Libero. Tra l'altro, prima di analizzare alcune delle novità, proprio questo pianto, queste lacrime, forse le avete viste, le avete anche ascoltate, avete visto anche il video del ministro Elsa Fornero, che nel momento in cui doveva pronunciare la parola, abbiamo chiesto agli italiani sacrifici, sulla parola sacrifici è proprio scoppiata letteralmente in lacrime, una cosa mai vista. Filippo Ceccarelli su Repubblica vi dedica tutto un commento, le lacrime della Fornero, anche i tecnici allora hanno un'anima. Il ministro del lavoro Elsa Fornero stava spiegando con grande chiarezza e intensità il decreto sulle pensioni, ma è arrivata al punto in cui a milioni di pensionati era chiesto di accettare, tanto per cambiare, la miseria di quei 4 soldi che già ricevono e anche meno, non ce l'ha fatta più. Una scena imprevedibile, sconvolgente, accennato un breve mesto sorriso, dopo aver fatto un richiamo al costo psicologico di questa decisione, è parsa a prendere fiato, ha spalancato gli occhi, ha detto che era necessario chiedere un... Ma quella parola le si è bloccata in gola e, scuotendo leggermente il capo, no, no, non riusciva proprio a dirla. Quella parola, anzi, era e anzi, sacrificio. Il presidente Monti sembrava addirittura seccato, scrive Ceccarelli. L'ha detta lui quella parola e ha proseguito per alcuni interminabili istanti segnati dal rumore dei flash che sparavano all'impazzata su di lei. La Fornero ha pianto calde lacrime con la mano sulla bocca come una bambina. E è una scena che, scrive Ceccarelli, mai si era visto. L'immagine del ministro del lavoro, del governo più freddo della storia repubblicana, non dice solo l'impeto con quelle lacrime, la passione, l'energia che prevale nelle persone che si buttano dentro un progetto, ma forse dicono anche quelle lacrime, a un livello cui le parole difficilmente attingono, la vergogna di una resa anche personale. Dicono magari la sconfitta di fronte a quella che intimamente è sentita come un'ingiustizia. Dicono la stanchezza dei luoghi comuni, delle frasi fatte, delle parole antiche e spaventose usate per cavarsela davanti ai giornalisti, passando sopra alla vita vera di tanta gente. Insomma, è una commozione incredibile. La prima volta nella storia che un ministro, ci sono state le lacrime, le ricorda Ceccarelli di Achille Occhetto quando, no, guida l'ultimo congresso del PC, oppure Livia Turco che durante, da ministro durante un convegno sugli adolescenti a rischio pianse. E certo, però nel momento della presentazione della manovra, il ministro del lavoro che proprio scoppia in lacrime letteralmente nel momento in cui deve pronunciare la parola sacrificio, c'è davvero tanto, è tanto evocativa un'immagine del genere. Allora, a proposito di pensioni, visto che poi di questo si parlava, addio alle pensioni di anzianità. Questo ormai è un dato di fatto. Pagina 19 del Sole 24 Ore, Davide Colombo e Marco Rogari, c'è anche tutta una tabella degli effetti al passaggio contributivo, il contributivo pro rata per tutti dal 1 gennaio 2012. Questo ormai non era una novità. Si sapeva da qualche giorno. Abolizione del sistema delle quote legate alla somma di età anagrafica e contributiva per le pensioni di anzianità. Le uscite anticipate restano possibili solo con 42 anni di contribuzione per gli uomini e 41 per le donne. C'è un pacchetto organico che vedete nei dettagli sul Sole che dovrebbe garantire 3,5 miliardi di risparmi. C'è poi il tema dell'evasione, c'è la tassa sul lusso, sulle barche, sulle case, sulle macchine di lusso sopra i 170 cavalli, c'è la lotta all'evasione, la soglia di tracciabilità scende da 2.500 a 1.000 euro, qualcuno, 1.500 di euro mi pare, qualcuno la voleva far scendere di più, fino a 1.000 euro la tracciabilità, fino a 300 euro, 500 euro, cioè aboliamo il contante. Tassiamo addirittura l'uso del contante, ne parleremo questo alle 8.30, no? Di lotta all'evasione anche con questo strumento. Torna l'ICI sulla prima casa, a pagina 10 del Corriere della Sera c'è tutto un primo calcolo con tabelle di quello che potrebbero pagare i nostri proprietari di case, per esempio, un esempio è in zona semicentrale di Milano. Chi possiede un ampio trilocale potrebbe arrivare a pagare da un minimo di 213 fino a un massimo di 1.038 euro in più l'anno prossimo con la reintroduzione dell'ICI. C'è anche la tassa extra sui capitali già scudati, no? Tutti quelli che hanno beneficiato dello scudo fiscale, e qui Isabella Bufacchi e Antonio Iorio a pagina 14 del Sole 24 Ore danno tutti i dettagli. Chi ha beneficiato dello scudo fiscale ha fatto rientrare i capitali, ora si vedrà applicare un prelievo aggiuntivo dell'1,5% sul capitale che è rientrato, sul quale già si era pagata una tassa, peraltro una tassa abbastanza irrisoria per far rientrare il capitale. C'è poi la lotta alla casta. Ebbene sì, la lotta più... Vabbè, intanto Mario Monti ha detto, per dare un segnale, rinuncio allo stipendio da presidente del Consiglio, come da ministro dell'economia ad interim, cioè che mantiene anche, no, ad interim, ministro dell'economia che tiene come suo dicastero, ha detto se posso tecnicamente rinuncerò anche al compenso da senatore a vita, ma questo non si può per Costituzione, insomma i parlamentari, questa è una bella cosa, non possono, neanche se volessero, non possono rifiutare per legge lo stipendio, questo i parlamentari, è una garanzia della loro indipendenza. Rinuncia invece allo stipendio di Premier, lo devolvo allo Stato, ha detto Monti, e la scure c'è soprattutto sulle province. Abolite le giunte provinciali, così abolite, e i consiglieri ridotti a 10, soppresse le elezioni, gli organismi avranno solo funzione di indirizzo. Una scure sulle province, spariranno le giunte, così titola pagina 9 La Stampa. Vi faccio un quiz, vi lascio con questo quiz sul quale sicuramente vi arrovellerete durante tutta la durata del traffico, ed è questo: secondo voi le province, il presidente dell'Unione delle Province Italiane, come ha reagito? Avrà accolto con grande entusiasmo questa scelta dicendo giusto, finalmente una bella dieta alle province, oppure avrà detto no, questa norma è incostituzionale? Tra poco la risposta. Strade in diretta. Disagi questa mattina sul tratto emiliano della 14 Adriatica. Ci sono code di 3 km per il ribaltamento di un rimorchio tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Per agevolare le operazioni di recupero e per la nebbia sono state chiuse le entrate di Imola, Faenza e Castel San Pietro. code di 4 km per un altro incidente anche tra Bologna Borgo Panigale e il bivio a 13 Bologna Padova in direzione Ancona, con ripercussioni sul nodo di Casalecchio. Tra Forlì e Cesena soffia vento forte, transito vietato a telonati, furgonati e caravans. Vento forte anche in Toscana e prudenza anche per le piogge sul versante tirrenico al centro-sud. Andiamo sulla 26 dei trafori, si formano code per incidente tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa Bettole in direzione Genova Voltri. Traffico del mattino su restanti percorsi con code e rallentamenti attorno alle principali città. Per il momento è tutto, strada in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Entra nel network di Fondirigenti, il fondo di Confindustria e Federmanager. Più di 13.000 imprese con 73.000 dirigenti lo hanno già scelto. Fondirigenti è innovazione e sviluppo per i tuoi manager. Scopri il conto formazione. Se sei una PMI, utilizza i piani 24. Il tuo progetto sarà approvato online in un solo giorno. Con i piani solidali puoi aggregarti con altre aziende e realizzare iniziative territoriali e settoriali. Scopri la fabbrica del management, progetti per il futuro delle imprese e dei manager. Vai su www.fondirigenti.it, aderisci, è gratis. Fondirigenti, innovatori per formazione. Ovviamente lo sapete, intanto devo correggere, sono 170 kW, subito mi scrivono i messaggi degli ascoltatori, il limite delle macchine cosiddette di lusso oltre le quali verrà pagato un super bollo, diciamo, no? Subito ovviamente avete scritto che cosa, qual è stata la posizione del presidente dell'Unione delle Province Giuseppe Castiglioni. Il provvedimento contro le province è anticostituzionale. Questo ha detto, la misura è inaccettabile. E poi ha fatto questo appello che suona un po' come un ricatto, vale a dire attenzione perché così mettiamo a rischio il pagamento degli stipendi del personale, come dire, con questi tagli non possiamo più pagare chi lavora per le province. Allora, come hanno reagito, come reagiranno i partiti? Perché poi questa manovra dovrà essere approvata dal Parlamento e quindi come sono le reazioni dei partiti a questa manovra, che è lo spirito di Monti, ormai si è capito, è quello di, diciamo, scontentare gli uni e scontentare gli altri in nome di un salvataggio appunto dell'Italia, in modo che tutti debbano ingoiare qualche boccone amaro per poi approvare questa manovra. Intanto c'è qualche retroscena su come l'abbia presa Berlusconi. A pagina 13 della Stampa, Amedeo la mattina, la reazione di Berlusconi sarebbe stata questa: gli italiani ci rimpiangeranno. Mentre per il Corriere della Sera la reazione, questo sempre nei retroscena, di Berlusconi ai suoi, una volta viste le proposte del governo Monti, è: chissà cosa sarebbe successo se decisioni così impopolari le avessimo assunte noi. Questo Berlusconi. Ufficialmente però Berlusconi dice che bisogna appoggiare Monti. Questa è la linea e la traccia. Infatti il segretario del Popolo della Libertà, Alfano, intervistato dal quotidiano nazionale Il Giorno, a pagina 8 e 9, due pagine di interviste, per dire: ci hanno ascoltato, soprattutto non è passata l'idea dell'aumento dell'IRPEF. Non possiamo dire che voteremo a scatola chiusa, oggi studieremo a fondo il testo, non abbiamo voluto fare negoziati con il governo, certo daremo una linea di partito ed eviteremo che ci sia un rompete le righe, anche se nel Popolo della Libertà tutti i retroscena raccontano, per esempio c'è Martino che ha già detto non la voterò, l'onorevole Osvaldo Napoli che dice non la voterò, o meglio forse mi asterrò, Sacconi che dice bisogna veramente turarsi gli occhi, le orecchie per votare una manovra del genere. L'imbarazzo è anche all'interno del Partito Democratico, PD in imbarazzo, Bersani, decisioni non del tutto eque, così titola pagina 19 il Corriere della Sera. Chi gongola, a meno fanno quelli che stanno gongolando molto, sono quelli della Lega. Ieri è stato inaugurato, riaperto il Parlamento padano. Oggi la Padania esce in edizione straordinaria, anche la Padania in genere il lunedì non è in edicola. Bossi, la Padania pronta a riprendersi il futuro. È stata rilanciata l'idea secessione, facciamo come la Cecoslovacchia, uniamoci alla Svizzera e alla Baviera. Insomma, sono volate un po' anche proposte qualcuno può dire strampalate, qualcun altro può dire invece concrete. Di concreto c'è l'intervista che l'ex ministro dell'interno Roberto Maroni rilascia al Corriere della Sera, intervistato da Fiorenza Sarzanini, critica la manovra. Per varare questa manovra non era necessario davvero consegnare il paese ai professori. Hanno accettato i diktat di Bruxelles sui conti, hanno perso di vista i valori. Dice Maroni, davvero non c'è nulla da salvare in questa manovra. Non siamo d'accordo con questo metodo che ha fatto prevalere l'aspetto finanziario su quello sociale. Vincono i banchieri rispetto alle società in cui i banchieri operano. Dico agli indignati che fine hanno fatto. Mi chiedo anche dove sia finita la Confindustria, che il 10 novembre si appellava al governo e gridava fate presto, riferendosi alle misure per la crescita. Insomma, un Maroni d'attacco che dice l'ICI sulla prima casa è una vergogna, le pensioni sono una rapina. Una Lega che attacca a 360 gradi. Questo, cari ascoltatori, è il panorama di quello che ci riserva la manovra con le reazioni della politica. Solo lo spazio per concludere con due notizie. La prima di sport, che però è legata a un lutto, vale a dire la morte di un grandissimo calciatore brasiliano, Socrates. Tacchi, alcol e utopia, la dottrina di Socrates. Vi segnalo questo articolo a pagina 49 sul Corriere della Sera, o anche il racconto di Paolo Manzo per La Stampa, pagina 45, addio al dottore dai piedi buoni, in campo segnò per la democrazia, la storia di Socrates, brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, per tutti solo Socrates, che è scomparso dopo che ha avuto vari ricoveri, era finito nell'alcolismo a 57 anni l'altro ieri a San Paolo. E poi cosa devo titolare? Devo citare la Gazzetta dello Sport. Eccolo qua, la Juve ha vinto, marchisio di qualità. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport con Peter Bescapè, che mi invita a leggere la classifica, mi diceva, del campionato di calcio, ma partendo dal basso. Non ho capito perché volesse partire dal basso. Ah, forse perché trovava nei primi posti l'Inter, è per quello. Vabbè. Comunque, ci fermiamo qui, c'è il giornale radio e poi rientriamo.